Il punto di Stefano Folli. Il Presidente della Repubblica ha ricordato ai partiti che l'Italia è sempre a rischio per quanto riguarda il debito pubblico e quindi che la priorità oggi che siamo di fatto in campagna elettorale è preservare quello che ha fatto il governo Monti e di conseguenza prendere impegni molto seri per il prossimo futuro. È un punto chiave perché è su questo che l'Europa ci giudicherà ed è su questo che ci giocheremo il nostro futuro. Ma è qui che nascono le maggiori preoccupazioni. Non sappiamo come sarà formato il prossimo Parlamento, anche perché non è chiaro nemmeno con quale legge elettorale andremo a votare. Però è sicuro che vi saranno rappresentati in percentuali senza precedenti forze e movimenti che non credono nell'Europa e vorrebbero prenderne le distanze. Sarà una massa politica che premerà sul governo, cioè sulla maggioranza, che invece dovrà fare i conti con la realtà. Ed è una partita senza un vincitore preordinato, anzi è una partita che è già cominciata.